Sono almeno 100 i sequestrati che sono usciti dalle proprie celle al richiamo di Valerie. Tutti dentro di nuovo. Dal rumore sembra che siano in tanti e noi siamo disarmati. Ci metterebbero un minuto o due per disintegrarci. Dovranno posizionarsi almeno uno per cella quando arrivano e nell'uno contro uno possiamo giocarcela meglio. I sequestrati hanno capito che Valeria è in gamba e quindi non esitano un secondo a fare quello che il refrattario si gli chiede. Quando i Tarspok stanno per svoltare l'ultima curva del tunnel che li mette sul corridoio delle celle, i sequestrati sono tutti dentro le loro celle. Gli uomini topo restano meravigliati vedendo che i sequestrati sono rimasti nelle loro celle nonostante i blindati siano aperti. Ognuno si mette di guardia davanti ad una cella. Il caposquadra, contando di fiatone, impartisce gli ordini ai suoi uomini. Poi ne indica uno. Tu, invece, corri all'ufficio del direttore e digli che anche questa sezione è sotto controllo. Sì, signore. L'uomo topo si incammina velocemente verso l'ufficio di Lerit, o meglio dire, quello che resta dell'ufficio del direttore di Carcelia. Il rumore delle serrature, quando aveva mandato il computer in tilt, aveva spalancato a Lerit la porta sull'inferno. Con una ferocia disumana aveva iniziato a spaccare i video di controllo, per poi passare a qualsiasi cosa gli capitasse tra i piedi. Ne aveva fatto spese anche il Tarspok che era con lui nell'ufficio e cercava di calmarlo, e che ora giaceva a terra con una pallottola ficcata tra gli occhi. Lerit, nella sua follia, ha comunque avuto la lucidità di blindare la porta con qualsiasi cosa. Quando il Tarspok, mandato dal suo caposquadra, bussa alla porta dell'ufficio, Lerit trema al pensiero che potrebbero essere un gruppo di sequestrati. Poi si fa coraggio, con la sua pistola puntata verso la porta. «Chi è? E cosa volete?» «Dottor Lerit, sono l'agente TC-07. E cosa vuoi da qui?» Il Tarspok per un attimo resta in silenzio perché è stranito dai modi del suo direttore. «Dottor Lerit, mi ha mandato il comandante K-11, voleva farvi sapere che anche la sezione 2 è sotto controllo. Aspettiamo suoi ordini e nel frattempo stiamo di guardia alle celle.» «Sì, sì, sì, avete fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Ora cerco di riavviare il sistema operativo di questa merda di computer così da poter richiudere tutti i blindati.» «Sì, signore. Aspettiamo i vostri ordini e se volete mandiamo qualcuno che possa fare da tramite, dato che non funziona più nulla per il momento.» «Sì, mandami qualche graduato.» Lerit, che ha appreso la notizia che nessun sequestrato è libero tra i corridoi di Carcelia, si lascia cadere con il suo culone flaccido a terra. È in uno stato vergognoso il direttore, i pochi capelli che ricoprono la sua testa piccolissima rispetto all'enorme corpo flaccido sembrano andare ognuno singolarmente in una direzione. Il sudore gli cala dalla fronte ed il filo di bava sembra quasi un tatuaggio in 3D inciso sul lato delle sue labbra. La camicia grigia è diventata nera da sudore. La coda da topo, da colpi lenti al pavimento, sembra quella di un cane che è stato appena bastonato ed ha trovato qualcuno che ora lo coccola. Sogghigna e con il filo di voce, guardando il Tarspok stramazzato a terra di fronte a lui, inizia a parlare da solo. «Hai visto? Avevi paura che Carcelia fosse sotto scacco di quei luridi pezzi di merda. Mi dispiace che non hai potuto vedere che ti sbagliavi. Pace all'anima tua.» Mentre Lerit delira nel suo ufficio, seduto a terra in una specie di trance, l'uomo topo è appena tornato alla sezione 2. Avvisa il suo caposquadra degli ordini che gli ha dato Lerit. «Questo è tutto quello che mi ha detto, signore. Farò io da spola tra qui e Lerit. Tu intanto, dato che tutte le celle sono già controllate dai tuoi colleghi, mettiti a guardia e a metà corridoio. In questo modo io non dovrò fare 300 metri per passarvi gli ordini del direttore.» «Sì, signore.» Poi, andando verso l'ufficio di Lerit, il caposquadra K11 sputa a terra in segno di disprezzo. «Che schifo di gente che siete. Oramai non siete in grado nemmeno di scappare con le porte delle celle aperte.» Poi si lascia cadere in una risata sguaiata. Da una delle celle in fondo al corridoio si sente un colpo di tosse, quasi come volesse provocare K11. «Chi è stato?» «Signore, è sequestrato nella cella C10. «Oh, il nostro caro ribelle malaticcio! Oramai sei solo un feticcio ammalato e non riusciresti nemmeno a far paura ad una mosca. un secondo colpo di tosse da parte di Valerie e poi il terzo. Al terzo colpo di tosse, i Tarspok di guardia alle celle, che sono distratti dallo scambio di opinioni, vengono aggrediti dai sequestrati. Lo stesso Valerie, con un fortissimo pugno, dà un colpo alla nuca al suo guardiano, che lo lascia stordito a terra. Il refrattario si riprende la mitragliette ed esce dalla cella, accompagnato da una raffica di proiettili che stendono i primi Tarspok nelle sue vicinanze. Altri sequestrati seguono l'esempio di Valerie. Lo stesso K-11 viene raggiunto alla testa da una raffica di mitra partita da un sequestrato che si trovava nelle sue vicinanze. In un lasso di pochi minuti la situazione è capovolta. I sequestrati sono tutti dalla parte dell'uscita ed i Tarspok sono bloccati nelle celle alla fine del tunnel. I fischi di proiettili rimbombano in un feedback tagliente. Almeno la metà dei Tarspok vengono trafitti dalle loro stesse armi, ora in pugno ai rivoltosi. Ma anche da parte dei sequestrati ci sono parecchie vittime. Man mano che i Tarspok cadono sotto i proiettili, i ribelli avanzano di cella in cella per ripararsi dal fuoco nemico, contro di loro per fare in modo che non ne resti più uno vivo e recuperare quante più armi possibili. Devono muoversi velocemente prima che alle loro spalle arriva un altro plotone di uomini topo. Sono arrivati quasi in fondo i rivoltosi e per quelle poche decine di Tarspok ancora vivi non c'è nulla da fare se non arrendersi sperando che qualcuno li venga a salvare immediatamente. Gli uomini topo lanciano le loro armi fuori dalle celle in segno di resa. Un gruppo di rivoltosi avanza con le canne di mitra puntate alle celle verso gli arresi. Sono rimasti in tutto una quindicina i Tarspok, troppo pochi per resistere a più di 70 rivoltosi. Le ultime armi vengono raccolte e vengono distrutte tra chi ne era rimasto senza. Distribuite tra chi ne era rimasto senza. Non uscirete mai di qui, bastardi! Un Tarspok, quasi con tono minaccioso, finisce appena di dire la frase e immediatamente si trova quattro mitra puntati sul suo volto. Il tempo di appoggiare le dita sui grilletti che davanti agli occhi dei rivoltosi per la prima volta avviene la trasformazione fulminea dei Tarspok in topo. Lo stesso Valerie resta immobilizzato guardando la scena di un gruppo di topi che scappa verso l'uscita. Riprendiamoci da questa visione, abituiamoci perché la rivedremo più volte durante il tentativo di fuga. Ma prima andiamo a far visita a quello schifoso del grande topo, Lerit. Un sì deciso e rabbioso viene urlato da tutti i rivoltosi, armi in pugno, canne ritte verso il tunnel ad altezza uomo. Passo deciso, sguardi pieni di collera e il battito accelerato dei loro cuori. Solo 300 metri separano i rivoltosi, con Valerie ed altri due davanti a tutti, dall'ufficio del gran capo del torturatore di Carcelia. L'altra sezione in cui ci sono i sequestrati più tranquilli è ancora sotto controllo dei Tarspok e molti altri Tarspok controllano i 2 chilometri di tunnel e i tombini di uscita. Ciò nonostante, la realtà mostra il fetido ma tecnologico carcere fognario, studiato nei minimi dettagli per evitare rivolte dall'interno o incursioni dall'esterno, per metà in mano ai rivoltosi. Se la tecnologia ha lo 0,1 di errore, non vuol dire che è infallibile, perché quello stesso 0,1 può avverarsi in qualsiasi momento. L'area nord e l'ospedale in centro invasi da cannibali. Carcelia in rivolta. Una 013 è una polveriera con una miccia corta che è stata appena accesa. Stop! listen and listen, but I don't hear a sound. Oh, I'm at the mercy of nothing and everything. Oh, I'm at the mercy of nothing and everything. Well, I search and I search, but I don't see a thing. Scream and I scream, but this voice just won't sing. So I'm running, I run and I run up so I hear Radiazione 23 giugno 2014, oggi lunedì, come ogni lunedì la diretta d'azione comprenderà la controinformazione, ma soprattutto la lettura di Sabotatori di Edward Debbie, che porteremo a termine per altre, penso, altre 4 dirette, sì, 3-4 dirette. Un po' di luglio. E poi tutti noi in vacanza, però... usciamo noi fuori facciamo dalla, la pausa cameretta. Usciamo fuori dalla cameretta con l'aria viziata, invece il sito continuerà ad aggiornare la controinformazione quotidianamente. Sentite come ci sentite bene? Allora, tra un po' non ci sentirete più perché poi faranno cadere la connessione. L'ultima volta c'era la partita della nazionale, poi nel discorso no, hanno fatto cadere ovviamente la diretta, la connessione prima alle 5:30 invece delle 6:10 normali, quindi ci sta pure che oggi alle 5:30 ripeto, se hanno riattivato il meccanismo automatico, può essere che tra 8 minuti circa cade la diretta. La tentazione ci ha colto di farla domani quando c'è ancora la nazionale, però abbiamo detto fanculo nazionale, fanculo loro. E allora ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, radiazione@odissici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati da far pubblicare sul sito di Radiazione, oppure anche materiale scaricabile tipo opuscoli, libri, CD, manifesti. Il sito di Radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricarvi, come ho detto prima, attraverso la pagina di download un bel po' di materiale, dove potete riascoltare i podcast delle dirette d'azione o ascoltare la diretta d'azione in diretta attraverso il lettore flash player o il banner che trovate in home page ogni giorno della diretta. Ricordo che Radiazione è in due lingue, italiana e quella croata. Il banner per accedere alla sezione croata lo trovate sopra il lettore flash player, ci cliccate sopra e vi si apre Radiazione in lingua croata, che non è lo stesso, uguale, gli stessi articoli, ci sono molti articoli simili, però comunque portata avanti da un'altra compagna. Radiazione trasmette da anarchia.net, compagno che, di Anarchist Library, che ci ha messo a disposizione il server sia per il sito che per la diretta della radio, che ringraziamo sempre. Sempre. E quindi questi erano per quanto riguarda gli indirizzi utili. Ricordo che se dovesse cadere la diretta, l'ultima volta lo ricordo è stata alle 5:30, quindi tra 6 minuti circa, se automatico ricadrà. O invece se no 18:20. Provate a riaggiornare fino a quando non ci sentirete. Qualcuno ci avviserà ovviamente che la diretta è caduta. Allora, Ora ci ascoltiamo un brano degli Analogical Guerrilla, il brano è EFK, e poi dopo si torna qui e si inizia la lettura del libro I Sabotatori di Edward Avery. Risparmiamo il riassunto delle puntate precedenti perché oramai abbiamo preso questa sana abitudine di mettere in riascolto i podcast delle precedenti dirette d'azione prima di andare in onda, e comunque invitiamo chiunque volesse, coloro e coloro che volessero risentirsi il punto da cui proveniamo, a scaricarsi i podcast e a supportarci in questo modo, anche dandoci un segnale di presenza. Ricordiamo semplicemente che I Sabotatori di Edward Abbey si ambienta a metà degli anni 70 in una zona degli Stati Uniti sud-occidentali, e seguiamo le vicende non picaresche bensì molto concrete, molto radicali, di una banda, di una batteria di quattro avventurieri, chiamiamoli così, che lottano contro la devastazione ambientale provocata dal sistema di un capitalismo integrato e purtroppo, decisamente senza soluzione. La fuga dal predatore. Hajdak mangiò una scatoletta di manzo brasiliano sotto sale, nitrato di sodio e tutto il resto. Quei bastardi fascisti, i brasiliani dell'epoca sotto la dittatura militare, fanno una carne sotto sale davvero buona. Si scolò due lattine intere di ananas a dadini, compresi i dadini per dessert. Si concesse un breve riposo, poi rimise lo scatolame nella borsa termica e riseppellì la borsa termica nel buco nascosto. Smontò la motosega, oliò tutte le parti e le imballò nella borsa di tela e ripose la borsa insieme al cibo. Coprì il buco con la terra, rocce e legnetti. Alla luce delle stelle quantomeno sembrava ben nascosto. Quello che rimaneva finì nel suo zaino, che si sò di nuovo in spalla. Si calcò il cappello in testa e ammirò le stelle, l'orsa maggiore e i suoi amanti. Si presentava dal suo punto di osservazione rovesciata, era circa l'una del mattino. Hajdak scese il declivio della scarpata sotto il bordo e si diresse a nord, tagliando dritto verso le luci di Kayenta. Si sentiva bene. Il suo fardello sembrava molto alleggerito dopo i pesanti carichi degli ultimi giorni, i suoi piedi erano in forma perfetta, il cuore e la testa rinvigoriti dal dolce piacere del successo. Si divertì, nonostante i cani che abbaiavano dagli spiazzi davanti alle capanne di Navajo e il previsto blocco stradale della polizia sull'autostrada a sud del raccordo di Kayenta, che lo costrinse a girare al largo. Nella suggestiva ora, a cavallo, tra la falsa e la vera alba, raggiunse il complesso di motel, stazioni di rifornimento e negozietti di curiosità sul raccordo stesso. Mollando il suo zaino tra i cespugli, perché nulla è più sospetto agli occhi degli abitanti di una piccola città pelle rossa o bianchi di un uomo barbuto a piedi con uno zaino in spalla, controllò allora il perimetro del parcheggio dell'Holiday Inn. La jeep era ancora là, completa di chiavi. E c'era un biglietto. Sam, ti ho aspettato per 3 giorni interi. Il santo dell'ultimo giorno è arrivato e siamo andati insieme a prendere sua signoria al Mexican Hat International Airport. Ci vedremo al Plaza, come d'accordo. Sei pregato, per favore, di fare in fretta, perché non mi piace aspettare. Basta con gli scherzi e dai il tuo contributo all'abbellimento dell'America. Fatti un bagno. La tua amica e consigliera legale, Thelma. Nessuno in giro, eccetto qualche aborigeno stordito contro un muro di calcestruzzo di scorie con bottiglie vuote lì vicino. Hajdak mise in moto la sua jeep, recuperò lo zaino e si mosse in direzione nord, attraversando Kayenta diretto al fiume San Juan e al villaggio di Mexican Hat. Il sole cominciò a fare capolino, cogliendolo mentre sferragliava sopra il ponte. Tornato nello Utah, nel paese pazzo dei canyon, si sentì decisamente meglio, più sicuro e a casa propria. Bello essere di nuovo nella vecchia cara contea di San Juan. Notò che il caffè era aperto e, contro il suo giudizio più assennato, sapendo che avrebbe dovuto allontanarsi il prima possibile da tutte le città e le strade asfaltate, si fermò. Provava un desiderio irresistibile di una tazza di caffè e di una colazione con uova e prosciutto. 5 giorni di dieta forzata a base di uva passa, noci, semi di girasole, barrette di cioccolato con variazioni su muesli e latte in polvere, burro d'arachidi e manzo sotto sale in scatola lo avevano ridotto in quel modo. Allora parcheggiò la sua jeep a 2 isolati dal caffè, dietro al Frigid Queen Driver Inn, chiuso fino a mezzogiorno. Tornò indietro a piedi e si prese uno sgabello al banco. Per prendere l'ordinazione si presentò una ragazza indiana, ute, con l'acne, ma con una struttura del viso come quella di una principessa mongola, stella del cinema. Lui si recò nel bagno degli uomini per rinfrescarsi un po' la faccia e tentare di mettere un po' di ordine nella sua criniera scarmigliata. Mentre si liberava, lesse, come sempre, le scritte sul muro: la voce del popolo, la vera voce del popolo. Amore libero, dicevano, è il prezzo giusto. La gravità non esiste, è la terra che non ti lascia andare. Aiuta il movimento per la liberazione delle donne. Libera una donna stanotte. Uomo bianco, noi ti abbiamo dato il grano, tu ci dai solo lo scolo. Seguì un messaggio che proseguiva dalla parte del soffitto. Che stai guardando qua su, stupido? Ti stai pisciando sulle scarpe. Haydak tornò nella sala del caffè e trovò due larghe schiene fasciate in strette camicie da cowboy sedute vicino al suo prosciutto e uova, patate alla griglia e caffè. Due cappelli da cowboy grigio argento e due chiappe imponenti coperte di gabardine. Li individuò all'istante come i tipi di uomini che portano il cravattino di cuoio e sparano ai colombi e mangiano salsicce di Vienna in scatola quando vanno a pescare per divertirsi. I tipi di persone che fanno dell'America ciò che è oggi. Giorno, disse Haydak, sedendosi al suo posto davanti al proprio piatto. L'ampia tesa floscia del suo sombrero avrebbe nascosto, immaginava, la parte superiore della sua faccia, quella pericolosa. Quelle pupille cerchiate di rosso che brillavano, impazienti verso di lui come quelle di un lemure in una grotta, dal vetro rotto dello specchio della ritirata degli uomini, nell'istante in cui si sedette comunque seppe di aver commesso un grave errore. Con un angolo dell'occhio vide la blazer giallo brillante parcheggiata con il muso contro il tronco dell'albero all'esterno, le grandi insegne ufficiali sulla portiera del guidatore. Era più stanco di quanto pensasse. Le sinapsi del suo cervello, ammesso che ci fossero, erano scattate a vuoto, o forse non erano scattate del tutto. I suoi riflessi erano appannati. Sapeva di essere stanco, ma non sapeva, non aveva saputo di essere troppo stanco per vedere. E che cazzo? Adesso lasciatemi mangiare, ci penseremo più tardi. Le muscolose mascelle scure vicino a lui interruppero il loro movimento. La faccia di cuoio si voltò verso di lui e gli occhi azzurri chiari come le bacche di ginepro che irradiavano rughe dopo una vita trascorsa a difendersi dal bagliore del deserto si fissarono sulla ostile faccia irsuta di George Washington Haydak. «Come sta il mio amico Seldon C?» disse il vescovo squadrandolo con durezza. Sconcertato, ma troppo esausto per curarsene, Haydak ricambiò lo sguardo pensando: «George, hai mai visto da vicino il culo di un cavallo? Beh, questa è la tua occasione. Io non lo conosco», borbottò con la bocca piena. «Ma davvero?» Le manone russe del vescovo, più grandi di quelle di Doc e aggraziate nemmeno la metà, ripresero a dedicarsi al cibo. «Beh, ragazzo, lui ti conosce?» L'uomo alla destra del vescovo, che sembrava il fratello più giovane di Love, Bishop Love, smise di mangiare e rimase ad attendere la risposta di Haydak, fissando le sue uova. Haydak ebbe solo una leggera esitazione. «Non conosco nessuno con quel nome», e aggiunse altro zucchero al suo caffè, energia rapida. «Sicuro? Are you sure? Mai sentito?» Ripresero tutti e tre a mangiare senza ulteriori interruzioni. Haydak è il vescovo di Blending, prosciutto con le uova, il Love più giovane salsiccia, 4 pezzi, e uova strapazzate. Lo sgranocchiare e il mordere rumorosi della masticazione umana. La principessa Ute, la cameriera, si spostava dalla cucina al banco come scivolando sui suoi mocassini da adolescente. La porta con la zanzariera sbatté di nuovo. Due Navajo con le acconciature tradizionali dall'area di amministratori scolastici o burocrati delle tribù si sedettero al tavolo vicino alla porta poggiando per terra le loro borse per documenti. Anche loro portavano il cravattino di cuoio. Haydak cominciò a provare insofferenza claustrofobica per l'assembramento, per quella sorta di assedio. Fuori da qui, pensò. Il vescovo continuò. Beh, ragazzo, io ti ho visto insieme a lui quel giorno ai Natural Bridges. E io non dimentico mai una faccia, specie una come la tua. C'eravate tu, lui e quella ragazzina con la voce civettola e quell'omone pelato con la barba sale e pepe. E si fermarono per farvi... E vi fermammo per farvi qualche domanda riguardo a degli atti di sabotaggio compiuti sul cantiere stradale. Qualcuno ha lasciato delle impronte di carro armato. Suole da carro armato. Piede 45 e 46. Per tutto il percorso da Combe Walsh a Hell's Crossing Junction. Se quello non eri tu, allora doveva essere il tuo fratello gemello. Il fratello del vescovo si allungò indietro sullo sgabello per dare un'occhiata alle calzature di Haydack. Le punte di Haydack si piegarono all'interno, i suoi scarponi da montagna con il carro armato. Deve essere stato il mio gemello, disse, spazzolando quel che rimaneva del rosso d'uovo con l'ultima fetta di toast. Buono, per Dio! Sollevò la sua tazza verso la principessa. Caffè! Lei la riempì sorridendogli timidamente in un modo che in circostanze normali avrebbe ossessionato la memoria di Haydack per i due mesi successivi. La speranza scaturisce eterna dalle gonadi del maschio. Non ricordi niente di quanto detto. Haydack si versò altro zucchero nel suo caffè. No! Spiegò, sei un bugiardo, ragazzo. Haydack beve un sorso, poi un altro. Cominciò a sentire il sudore formarsi nelle solite cavità e scorrere, goccia dopo goccia, giù lungo le scalinate laterali della cassa toracica. La camicia che stava indossando da 5 giorni puzzava già abbastanza senza aver bisogno di quell'extra di essenza naturale. Ah, che fare? Che fare? La stessa domanda, la vecchia domanda che pose Lenin. Naturalmente aveva la sua 357 magnum infilata nella cintura, nascosta nel giubbotto, ma non poteva certo tirarla fuori e fare fuoco su questi due fratelli Love, due molto grossi, di fronte a tutti quei testimoni. Avrebbe dovuto gettare il caffè bollente in faccia al vescovo, correre verso la porta. I problemi, come le rose, arrivano sempre a mazzi. Mi hai sentito, ragazzo? Ecco un'idea, fare il sordomuto. Scusi, disse, e rivolgendosi alla cameriera con un sorriso, mi porta il conto, signorina? La ragazza tirò fuori il suo blocchetto delle ordinazioni. Faccio un conto unico, chiese guardando Haydack e gli altri due gentiluomini. La loro conversazione l'aveva evidentemente tratta in inganno. Haydack pensò alle parole pronunciate dal signore alla cameriera quell'ultima cena. Conti separati, per favore. Dio, se era carina, confusa ma carina, quegli zigomi, quegli occhi aztechi. Ma aveva cose più importanti a cui pensare. Separato, il conto. Io devo andare. Tu non vai da nessuna parte, disse tranquillamente il vescovo. Non ancora, abbiamo ancora un po' di cose di cui parlare. Scusi? E armeggiò alla ricerca dei soldi, li pescò fuori. Sì, signore, per esempio dobbiamo parlare di un bulldozer che si è gettato nel lago Powell, o di rocce rotolate sull'alta delle mie blazer, o dei posti in cui si trova un certo Seldon Sin Smith. Cose di questo tipo, ragazzo mio. Il vescovo e suo fratello continuarono a esibire i loro sorrisi irridenti, ma tirarono indietro i piedi sotto i loro culi, pronti a muoversi a scattare. I loro occhi cupi e poco divertiti non lasciavano la faccia di Haydack nemmeno per sbaglio. Yeah. questi erano Theatre of Terrage D con il brano City of Light, primo brano dopo la prima lettura per oggi di Sabotatori di Edward Ebbey. Ora si passa, come di consueto, alla controinformazione con una notizia, ma più altro la notizia già l'avevamo data, però c'è anche uno scritto sulla liberazione di Alfonso e Hermes, che lo ricordo sono i due compagni che hanno fatto parte della rapina in cui poi morì Sebastian. Allora, dicevo, diffondo il testo che inizia con un saluto da parte di Alfonso ed Hermes. Un abbraccio caloroso e fraterno a tutti i compagni che mantengono vivo il ricordo del nostro fratello Angry e solidarizzano con noi, che corrono i propri rischi per moltiplicare la propaganda con il fatto. Un abbraccio stretto per ciascuno di voi, qui in Cile o in Argentina, Turchia, Germania, Indonesia o in ogni parte dell'angolo più lontano o più vicino. I vostri gesti alimentano il fuoco che abbiamo dentro di noi, i nostri cuori sono con voi. E queste erano le parole di Alfonso ed Emmes, scritte dal modulo di massima sicurezza proprio poche settimane prima della scarcerazione. Invece ora leggiamo il testo che ci fanno avere i compagni dal Cile. Questo venerdì 13 giugno, con la difesa di Hermes e Alfonso, incaricata della difesa popolare, nella prima corte di garanzia di Santiago si è svolto il processo con rito abbreviato per i compagni che sono stati condannati a 5 anni di carcere e quindi con il massimo della pena, ma con il beneficio della libertà vigilata intensiva. I compagni hanno accettato le accuse di detenzione illegale, di arma da fuoco e rapina a mano armata. La nostra profonda gratitudine va al team di difesa popolare per il lavoro svolto. Vogliamo diffondere e condividere la gioia che ci ha provocato vedere i nostri fratelli tornare liberi e ringraziamo tutti i compagni di tutto il mondo che hanno espresso solidarietà e sostegno, che sono parole vive. In particolare vogliamo ringraziare i nostri compagni che hanno contribuito alla diffusione e a far conoscere la loro situazione carceraria con vari mezzi, ai compagni che ci hanno prestato uno spazio radiale per comunicare e rompere l'isolamento, la biblioteca La Chietra che è servito come centro di raccolta, ai compagni che portavano i loro contributi e le loro lettere che ogni settimana venivano messe nei pacchi. In ogni caso ringraziamo tutti i compagni e fratelli che con le loro azioni di qualsiasi tipo hanno solidarizzato attivamente contro la loro prigionia, incrementando l'idea di distruggere lo sfruttamento e la dominazione, costruendo nel presente un mondo senza autorità. Infine, in questi 6 mesi di carcere, Alfonso ed Hermes sono stati accompagnati dal sapore triste e amaro della lotta, il dolore della morte che cadde su tutti noi. Angry, la tua assenza fisica è irreparabile, ma la memoria combattiva ti tiene presente nella lotta contro l'autorità. Ricordarsi di te è compito di ogni compagno nel mondo, se lo senta o lo voglia. A te, a Mauri, a Johnny e a tutti i compagni caduti vi ricorderemo attraverso gesti e atti disposti a distruggere questo ordine di sfruttamento. Distruggiamo il circo mediatico che giustifica la vendetta del potere. Solidarietà attiva con i fratelli, con i compagni Freddy Fantavilla, Marcello Villarroel e Juan Alliste. Le maledette celle imprigionano i loro corpi, ma non il loro spirito irriducibile, è nemico della dominazione. Sol Farias Vergara, Carlos Gutierrez Civileo, Anthony Mayer, Alejandro Astorga, René Sanuesa, Jorge Mateluna, Francisco Solar, Monica Caballero, Nicolas Olivares e a tutti i prigionieri della guerra sociale presenti. Sebastian Agri Oveslugi, Seguel vive in ogni cuore che si batte per la libertà. E questo era il primo testo per quanto riguarda la controinformazione di oggi per la diretta d'azione. Ora ci ascoltiamo un brano, nemmeno fa la posta, della band di Sebastian. Palabras in conflitto, il brano è Rap Insurrecto e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Sabotatori di Edward Ebbey. Estamos en guerra porque siento la pudrición bajo mi pie. Esquizofrenia mental, sabemos bien lo que es. Estructuras quieren vernos decaer. El asfalto si tengo mi sucia piel. El odio alimentando mi depresión infiel. Me recuerda que no hay ayer. El futuro a la puta mierda, no sé lo que es. La revuelta germina, la insurrección nunca termina. No hay salida, destrucción masiva, adivina. Terroristas aún estamos a la vuelta de la esquina. Sigilosos vamos, solo la luna nos ilumina. El camino no se termina. Tate vivo, mire y no delira. Puñal en mano al hipócrita, cura, aniquila. En cada cotidiana acción, destruyendo toda la jerarquía. Putas ideologías.

sono armati? Perché se avevano delle armi le tenevano nascoste come Haydak. Nel caso di Haydak si trattava di un possesso illegale, ma i fratelli avevano senza dubbio una procura dello sceriffo per girare armati. La domanda era: lo sfintere mi reggerà fino a che sarò fuori di qui libero e leggero? L'enigma dello sfintere. Questo era il problema. Il cagarsi sotto. Come ti chiami? Chiese il vescovo. Herman Schmidt. Ah, non mi sembri molto americano, Schmidt. Sicuro che non ti chiami Rudolf? Come? Rudolf, il rosso. Haydak gettò la tazza di caffè in faccia al vescovo e corse verso la porta. Le borse per documenti dei due navaco gli ostruivano il passaggio. Le saltò di slancio e passò attraverso la porta con la zanzariera, senza aprirla. Buona giornata, gli urlò dietro la cameriera, rispettosa degli ordini di scuderia imposti dalla direzione. Torni a trovarci, mister. Haydak superò correndo la nuova Blazer V8 del vescovo, rimpiangendo di non aver avuto il tempo per impadronirsi delle chiavi o bucare gli pneumatici. Riuscì solo a scorgere una rastrelliera di armi cariche all'interno prima di girare l'angolo e galoppare sulla strada verso Frigid Queen. Energia che non aveva mai pensato di avere gli pompava nelle vene, univa con un arco gli elettrodi dei suoi nervi, elettrificava i suoi muscoli. Piedi, non traditemi adesso, non troppo lontano, seguirono ruggiti di rabbia, lo sbattere e risbattere della porta, urla, urla, strepiti, il tambureggiamento di piedi impegnati nella corsa. Guardare indietro, no, non ancora. Il drive-in svoltò l'angolo e scivolò dietro la ruota della sua Jeep. Mentre avviava il motore si concesse una rapida occhiata alle sue spalle. Il più giovane dei Love, correndo di gran carriera verso di lui, aveva coperto metà della distanza. Un uomo grosso ma non veloce, Bishop Love, tergendosi la faccia con un tovagliolo, arrivò barcollando sulla porta del caffè, ululò a suo fratello e si diresse a tentoni verso la portiera della sua Blazer. Sollevando e schizzando ghiaia con le ruote motrici, Haydak scodinzolò con la sua Jeep verso l'autostrada. Il più giovane dei Love si piegò contro il muro del Frigid Queen, ansimando, poi girò i suoi tacchi e tornò goffamente al fratello mugghiante. Il piano di Haydak, due punti, smammare, persuase la sua Jeep rombante a spingersi alla massima velocità. Non abbastanza, doveva avere un vantaggio forse di un miglio prima che i fratelli Love smettessero di litigare per decidere chi doveva guidare e far partire il loro potente veicolo, manovrare e lanciarsi al suo inseguimento. Non abbastanza, l'unica possibilità di Haydak era abbandonare la striscia asfaltata e infilarsi nella boscaglia fitta. Eh sì, quale boscaglia? Si trovava nel deserto del fiume San Juan. Una vasta distesa di roccia rossa e conglomerato purpureo dove non cresceva altro che serpentaria, lippianodiflora, coda di volpe e amaranto. L'alto tavolato dove si trovava il rifugio era 16 km a nord. Una salita continua non ce l'avrebbe mai fatta. Pensa a qualcos'altro, uomo, pensa a qualcos'altro. Un cimitero di auto al Mexican Hut. Il solo si profilò davanti a lui come un decorativo ammasso di vecchie macchine rottamate, abbandonate e cannibalizzate. Haydak guardò nel suo specchietto retrovisore. La Blazer gialla ancora non si vedeva. Si precipitò fuori dell'autostrada, penetrando in un'apertura della recinzione in mezzo ai relitti. Si fermò e rimase ad aspettare. Mezzo minuto dopo i fratelli Love salirono sulla collina sfilando a velocità sostenuta in una cinquantina di metri dal naso di Haydak. A giudicare dal suono del loro motore erano ancora in seconda. Al massimo dei giri il vescovo guidava e il fratello teneva un fucile in verticale stretto tra le ginocchia. Haydak gli diede 1 o 2 chilometri di vantaggio e poi li seguì. Non aveva scelta, non poteva andare dalla parte opposta al sud, tornare in Arizona. Laggiù non aveva più amici. Doveva salire su quel tavolato e raggiungere i suoi compagni attraverso i boschi Hidden Splendor. Così si mise a inseguire i suoi inseguitori. 5 km dopo il Mexican Hat l'autostrada si biforcava, l'arteria principale proseguiva a est verso Bluff e Blanding, il ramo sinistro, solo parzialmente asfaltato per carità, e conduceva a nord verso gli altipiani. Il canyon, la libertà, il sesso e la vita libera. Il vescovo, inseguendo un fuggitivo che non si vedeva, fu costretto a prendere la sua prima decisione. Sarebbe stato abbastanza stupido da scegliere il ramo est lasciando Haida con ampia via di fuga, oppure avrebbe preso la strada a sinistra, chiamando nel frattempo via radio a Bluff e a Blanding, avvertendo la polizia stradale dello Utah, l'ufficio dello sceriffo e gli altri della squadra ricerca e soccorso della contea San Juan. Bishop Love, colmo di rabbia e tutto meno che un pensatore, prese la diramazione a sinistra. Dietro, fece in tempo a vedere la scelta del vescovo e andò a destra, direttamente nelle braccia spalancate delle autorità? Forse, ma invece forse no. Sebbene non avesse una particolare familiarità con la regione, a differenza di Selvio, ma sicuramente del vescovo, Haidak aveva studiato con una certa frequenza le mappe. Quanto gli bastava per ricordare che diversi chilometri più avanti c'era, sì, una strada sterrata che si staccava dall'autostrada a sinistra e finiva in qualcosa che la Camera di Commercio della Contea aveva battezzato Valley of the Gods, la Valle degli Dei. Era una pista senza via d'uscita, chissà, saliva fino al tavolato, chissà, disegnava un anello per poi tornare all'autostrada, chissà. Haidak non lo sapeva e non aveva il tempo per svolgere delle indagini sul posto. Nel giro di pochi minuti il vescovo si sarebbe reso conto che la sua preda era in qualche modo riuscita a sottrarsi alla caccia e non era più davanti a lui, ma al contrario alle sue spalle. Mortendo l'autostrada sulla spalla di un monoclinale completamente privo di alberi, Haidak aspettava di incrociare la strada sterrata e, quando la trovò, virò a sinistra scalando di marcia. Ballonzolò lungo la gola rocciosa e guadò uno specchio d'acqua profondo 15 cm sul lastrone di un basamento. Seguì la strada su per il versante opposto, che era impervio ma non così tanto. Qualche volta, nel recente passato, qualcuno doveva aver lavorato sulla strada con un livellatore di terreno cercando di renderla accessibile al traffico turistico. Haidak continuava la sua marcia, sollevando una nuvola di polvere nell'ampia piana desertica. Se il vescovo non la vedeva, allora era accecato dalla rabbia. La strada procedeva generalmente in direzione nord, seguendo i contorni del paesaggio. Davanti, un gruppo di monoliti si stagliava contro il cielo, resti erosi di rocce nude con i profili di divinità egizie. Oltre si redergeva la massa rosa del plateau, 500 metri di pareti che si staccavano in verticale dal deserto, inviolate, forse inviolabili. Se voleva raggiungere i suoi amici al punto di riunione stabilito, Haidak doveva trovare il modo di arrivare sulla sommità di quel tavolato. La jeep stava sollevando troppa polvere. Haidak si fermò per guardarsi intorno e rilassarsi, o almeno provarci, per qualche minuto. Cominciò a pensare che la sua fuga avesse avuto successo. Si appese il binocolo al collo e si arrampicò fino al punto più elevato dello spuntone di un'altura. Tutto intorno c'era solo la natura selvaggia, Mexican Hat, l'unico luogo abitato da umani nel raggio di 30 km, spariva alla vista sotto la protuberanza del monoclinale. In tutte le direzioni non vedeva altro che il deserto ondulato, la roccia rossa punteggiata da vegetazione a macchia, con qualche pioppo nei depositi alluvionali. Montagne e tavolati galleggiavano sulle onde calde, lontano, sipario dell'orizzonte. Nuvole di polvere si avvicinavano da sud e da ovest. Portò il binocolo sugli occhi. Sulla strada verso ovest, oltre le colline isolate e pinnacoli in primo piano, vide un minuscolo oggetto di metallo procedere veloce. Una Chevrolet Blazer giallo avanzava. Sobbalzano tra solchi e rocce, mentre una bandierina rosso scarlatto si agitava sulla punta dell'antenna radio lunga e sottile da sud. Sulla stessa strada stava percorrendo Heideck. Sopraggiungeva un'altra Brazel e un'altra ancora, entrambe a velocità sostenuta, le antenne lampeggianti e le carrozzerie scintillanti sotto lo sguardo del sole. Heideck seguì le due strade con il binocolo e alcuni chilometri più avanti, a ovest, tra le divinità della camera di commerci, trovò il punto in cui si intersecavano. I ricercatori e i soccorritori avevano tagliato ogni via d'uscita e si stavano avvicinando. Ormai erano a 10, massimo 15 minuti. «Ma non sono mica perduto», pensò Heideck. «Non voglio essere soccorso né trovato». Per un istante sentì la morsa del panico, mollare giù lo zaino e mettersi a correre, infilarsi in un buco e piangere, sdraiarsi, chiudere gli occhi, arrendersi. Ma respinse l'attacco di panico. Lo sfintere resse e, distogliendo lo sguardo dei suoi inseguitori, studiò la conformazione del terreno verso nord e nord-est. A nord non trovò null'altro che la parete del plateau, a nord-est, tuttavia, una traccia di binari si snodava tra gli dei, si immergeva in una gola e scompariva, riapparendo su uno stretto crinale cosparso di ginepri verso uno strapiombo. Una strada senza uscita? Chissà, da lì? Non era in grado di dirlo. Heideck scese sulla montagnola e salì sulla jeep. Avviò il motore, poi smontò per sbloccare i mozzi delle ruote anteriori e togliere un po' di stirpi rimasta incastrata nell'argano. Si sedette di nuovo al posto di guida, ingranò la prima e partì. Immediatamente code di gallo di polvere cominciarono ad alzarsi, rivelando la sua posizione. Stavolta non era possibile evitarlo. Lanciato a 10 km orari in più della velocità massima possibile, scrutava il terreno davanti a sé alla ricerca delle rotaie che aveva individuato dalla collinetta. E anche se da sopra era stato facile individuarle, ora erano invisibili. Blocchi di arenaria arrostita dal sole in terrazze stratificate che impedivano la vista. Un ginepro solitario sfilò alla sua sinistra, lo ricordò. Lì vicino c'era il punto in cui la linea ferroviaria divergeva e sebbene i secondi fossero diventati vitali, dovette fermarsi e arrampicarsi sul tetto della jeep. Studiando il guazzabuglio roccioso oltre il suo radiatore, vide le rotaie parallele emergere al pelo della sabbia attraverso un deposito alluvionale e risalire la collina, sì, decisamente verso est. Just how to look. pursuit and fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Another Mikey took a knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death, he caught a nasty virus. And then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying, they were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot, got him in the head. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Questi erano Battle Suffers con il brano Pepper. Ora si ripassa alla controformazione. Anticipo che oggi la controformazione, la maggior parte, quasi interamente, arriva dal Cile. Come la prossima, per l'appunto, come la prossima notizia che ho ricevuto tramite mail, però parla di un attacco esplosivo ad un centro di detenzione a cui ancora manca la rivendicazione. La mattina del 5 di giugno alcuni sconosciuti hanno posizionato un ordigno esplosivo che per la stampa si trattava di una carica di TNT. Parte della porta blindata e le finestre del centro di reinserzione para reos sono state distrutte. Il centro si trova ad Avenida Matta tra Avenida Matta con Manuel Antonio Tocornal, giusto di fronte alla scuola di gendarmeria. Dopo l'attacco al recinto di torturatori, personale del GOPE, l'Avocar e OS9 sono accorsi rapidamente sul luogo alla ricerca di prove ed evidenze, mentre una squadra antisommossa fortemente armata custodiva il centro. L'attentato cade poco dopo il compiersi dei 5 anni della morte durante un'azione del compagno anarchico Maurizio Morales, quando il 22 maggio del 2009 accidentalmente esplose l'ordigno esplosivo che trasportava nelle vicinanze della scuola di gendarmeria. ma lo stesso attacco cade all'indomani delle molestie subite dalla famiglia, dalle famiglie di Juan, Freddy e Marcelo, accusati di un ipotetico tentativo di fuga durante il processo che era in corso contro i compagni per l'assalto ad un paio di banche e la morte di un poliziotto. Sul luogo non sono stati trovati volantini o scritte e fino al momento nessuno ha rivendicato l'attacco. Poi sull'articolo che trovate sul sito di Radiazione trovate sia le foto che il video, che è un video dei media, però non è un video fatto dai compagni, quindi per chi è curioso e vuole andarlo a vedere basta andare dove c'è scritto video dei media, clicca qui, ci cliccate sopra e si apre la pagina. Ora dopo questa lettura ci sperando di andare avanti fino ad ora ci siamo quasi ci ascoltiamo un brano, sono i Combi Christ con il brano Feed Your Hunger e poi dopo si ritorna qui con il continuo della lettura di Sabotatori di Edward Abbey. We'll be right back. Haidak scalò in prima e si aprì un varco nella sabbia e sopra le rocce. Arrivato in cima, si fermò per guardarsi alle spalle. Tre nuvole di polvere si stavano avvicinando in due direzioni, chiudendo un triangolo di 15 km di cui lui era il vertice. Si affrettò. Sulla strada si snodava tra macchie di crisotamnus e arbusti spinosi, circumnavigando i piedistalli di monumenti alti 150 metri. A dispetto di variazioni provvisorie, i binari continuavano a salire e il lago del suo altimetro guadagnò altri 30 metri e apparvero altri ginepri stentati. Haidak si rese conto di trovarsi sulla scarpata che aveva visto dal punto di osservazione del suo primo stop. I ginepri stavano diventando più grandi e numerosi mentre la strada piegava verso il filo dell'orizzonte ad est. Correndo ormai su un terreno che era fatto soprattutto di roccia, il suo veicolo non sollevava più un vortice di polvere, ma la cosa non era comunque di grande aiuto, anche se il sentiero indietro di 5 km che non accennavano a diminuire, il vescovo e la sua squadra potevano vedere abbastanza facilmente la jeep di Haidak, dato che la linea visiva non era ostruita da nulla. Che cosa sperava di trovare George Washington Haidak alla fine di quell'onda montante di roccia levigata e ginepri? Non lo sapeva. Non aveva più alcun piano, semplicemente sperava e continuava ad andare avanti. Un alto ginepro in splendide condizioni di forma, ben ancorato nella roccia, come testimoniavano i rami scolpiti dal vento, si stagliava con la sua silhouette fotogenica contro il cielo. Oltre questo, sembrava esserci un vuoto. Con quell'albero diventato suo obiettivo, la soluzione dell'enigma, Haidak continuò a salire e salire, a guidare e salire. Non stava più seguendo nulla che assomigliasse ad una strada. La strada era scomparsa tra la roccia levigata e un chilometro prima. Tirò fino all'albero e lì fu costretto a fermarsi. La terra finiva. 4 metri oltre l'albero c'era il bordo, un margine roccioso, l'orlo di un grande precipizio. Haidak scese e guardò e si ritrovò sul filo di una parete a strapiombo. Non una semplice parete verticale, ma una falesia sporgente, il bordo di una scarpata in aggetto. A causa di quella particolare conformazione sporgente, Haidak non era in grado di vedere il punto di giunzione tra la parete e il banco di roccia sotto. Quanti metri saranno stati? Lui calcolò un volo di una trentina di metri. Il banco inferiore, o cengia, degradava dolcemente in un deposito alluvionale che a sua volta conduceva, attraverso cupole e calanchi, poggi e torrette, a largo viale di sabbia reso grigio verde dalla salvia e ombreggiato da boschetti di pioppi, chiamato Comb Wash. Comb Wash si estendeva da nord a sud per 80 km sotto la parete del Comb Ridge. A circa 60 km a nord da lì si trovava il cantiere per la costruzione dell'autostrada. Oltre quello c'era la vecchia strada che portava ai Natural Bridges, Fry Canyon Height e su uno sperone settentrionale abbandonato. I resti della ciminiera di uranio di Hidden Splendor, 56 km più là. Una lunga escursione e Haidak era già in ritardo di 4 giorni sull'appuntamento. Avrebbe potuto certo scappare a piedi anche da lì, da qualche parte lungo quella costa ci doveva pure essere un punto da cui calarsi con una corda, ma questo avrebbe significato mollare la sua costosa jeep con roll bar, argano, serbatoio ausiliario, portalattine, vari livelli per il rivelamento dei movimenti del suolo, insegne del guru Maharaj, adesivi Pensa Hopi, ruote battistrada largo, armi speciali, attrezzi, occorrente per campeggiare e arrampicare, mappe, carte topografiche, la Bibbia di Gideon e il libro di Mormon rubato al motel di Page e tanti altri piccoli tesori a quel branco di vigilante sulle sue spalle? Di abbandonare tutto ciò non se ne parlava neanche, finché poteva evitarlo. Ma poteva? Guardò di nuovo oltre il bordo. Era davvero una parete sporgente. Saranno stati una trentina di metri. Ricordò allora quell'aforisma preferito dal dottor Service. Quando la situazione è disperata, allora è il momento di preoccuparsi. Si voltò a controllare gli inseguitori. Il vescovo e la sua squadra si trovavano a 3 chilometri, impegnati nell'ascensione lenta ma costante della scarpata. Nella pace del luogo, nonostante la distanza, riusciva a sentire il ruggito rauco di quei grandi motori V8, gran bevitori di benzina ma potenti. Haydak calcolò di avere ancora circa 10 minuti. Bishop Love, il vescovo, era un uomo paziente, metodico e diligente. Nonostante la faccia e il collo soffrissero ancora delle conseguenze di quel caffè bollente, non avrebbe consentito all'odio di condizionare il suo giudizio, la sua cautela, la preoccupazione per i suoi uomini. Un pagano peloso, ancora distante ma chiaramente in trappola, chiamò via radio per una consultazione e si fermò. In attesa degli altri, smontò dall'auto e studiò il soggetto con il binocolo. Mettendo a fuoco, vide la roccia sporgente, gli alberi sparsi e le piante di yucca nelle sacche organiche di terreno e, ancora più lontano, alla fine di un limbo geologico, la macchia azzurra sbiadita dal sole che indicava il punto in cui si trovava la jeep pietosamente e malamente nascosta dietro quel largo ma ultimo ginepro. Love sapeva che cosa c'era oltre quel bordo roccioso. Era stato tra i pionieri di quella strada decenni prima, nel 52, quando, durante la corsa all'uranio, aveva picchettato quelle terre su cui reclamava i propri diritti. Miscredente, figlio di puttana motherfucker, pensò il vescovo, sorridendo fin nelle viscere, adesso sei nostro. Osservando nelle due minuscole circonferenze del suo strumento la posizione del giovane criminale, si avvide di movimenti furtivi dietro l'albero. Attenzione, rammentò a se stesso, considera che quello lì è armato e pericoloso. Finalmente i suoi uomini lo raggiunsero, confabularono un po' e Bishop Love suggerì di avanzare con gli automezzi per un altro chilometro e mezzo, fermandosi appena oltre la gittata di tiro del fucile. Da lì avrebbero proseguito a piedi, ovviamente armati, in linea di pattuglia aperta, con un uomo largo su ogni fianco per prevenire la possibile fuga del criminale lungo il bordo roccioso. D'accordo? La richiesta di assenso da parte del vescovo era una pura formalità. In realtà, i suoi suggerimenti nella rigida gerarchia della chiesa militare recavano l'autorità dei comandi. I suoi compagni, tutti uomini di mezza età con attività indipendenti, annuirono come buoni soldati, tutti, tranne il fratello più giovane del vescovo, che era, spiace dirlo, qualcosa di molto prossimo a un mormone selvatico. E stiamo attenti, concluse il vescovo. Quel sudicio bastardo potrebbe avere una pistola, potrebbe anche essere abbastanza pazzo da sparare. Beh, allora, osservò suo fratello, forse dovremmo chiamare con la radio lo sceriffo. Potrebbe essere una buona idea avere un supporto aereo qui, nel caso che quel furfante prendesse la via delle rocce, giusto? Il vescovo, ormai a metà strada tra i 50 e i 60, guardò con un'occhiata divertita e un sorriso sarcastico il fratello ragazzino che di anni ne aveva 48. Proprio ragazzino. Pensi che ci serva un aiuto, Sam? Lui è da solo e noi siamo in 6 e tu pensi che noi abbiamo bisogno di aiuto? Beh, dall'alto sarebbe più facile tenerlo sotto controllo. E dove pensi che possa andare? Vuoi che ti butti giù dal precipizio? Ma non lo so. E che facciamo? Ci mettiamo a chiamare anche la polizia di Stato, l'aviazione della Guardia Nazionale, gli elicotteri, magari chiediamo se possono portare anche la loro zietta con loro. gli altri ridacchiarono strisciando i piedi per l'imbarazzo. Grandi uomini competenti, astuti, due di loro gestivano stazioni di rifornimento e auto officine a Blenheim. Uno era il proprietario e gestore di un motel nel villaggio di Bluff, un altro gestiva un lotto per l'ingrasso del bestiame e un ranch di 600 acri sull'arido altopiano vicino a Monticello, dedicato alla coltivazione dei fagioli. Il fratello del vescovo lavorava come ingegnere capo per la stazione di pompaggio della El Paso Natural Gas Company di Annett, sud-est di Blenheim. Era una posizione di grande responsabilità. Tutti loro facevano veramente quella che nel West veniva chiamata una posse. Per quanto riguardava lo stesso Bishop Love, l'attività di ricerca e soccorso era soltanto un hobby. Lui non era solamente un vescovo della chiesa mormone, ma era impegnato anche come presidente della commissione della contea e aveva in mente di candidarsi al più presto per l'assemblea di stato dello Utah e sommo ufficio. Era proprietario della concessionaria Chevrolet di Blenheim, di varie miniere di uranio attive e inattive, e aveva un mezzo interesse nel complesso turistico a Hell's Crossing, e aveva 8 figli. Un uomo impegnato, troppo impegnato forse. Il suo medico, aggrottando le sopracciglia davanti ai tracciati del cardiogramma di Love, qualche volta gli ha suggerito di rallentare almeno 2 volte all'anno un po', e il vescovo rispondeva che lo avrebbe fatto quando ne avesse avuto il tempo. «Ok, Dudley», disse il fratello più giovane, «scherzaci pure su, tanto l'ufficio dello sceriffo dovremmo chiamarlo comunque a un certo punto». «Non ho bisogno di nessun aiuto», disse il vescovo. «Io ho una delega a sostituirlo e intendo usarla. Noi siamo una posse. Mi occuperò io di quel piccolo teppista peloso lassù, e se devo farlo, lo farò anche da solo. Voi, ragazzi, potete anche tornarvene a casa se è questo che volete». «Aspetta, Bishop», disse l'operatore del motel, «non ti incazzare, dai, verremo tutti con te, giusto?» confermò quello proprietario del ranch di fagioli. «Vorrei solo sapere che cosa pensi di fare quando l'avremo preso, Dudley», chiese il fratello. Il vescovo sorrise e teneramente, prudentemente, si toccò la faccia infiammata. «Beh, prima tirerò fuori le mie pinze e gli strapperò un paio di unghie dai piedi, poi farò lo stesso con i molari, poi gli chiederò dove si trovano Seldon Sin e quel tale dottor Service e quella puttanella che si portano appresso. A pensarci bene, potremmo accusarli anche di violazione della legge Mann, attraversamento dei confini dello Stato con una donna per scopi immorali, poi schiafferemo dentro tutto il branco da soli senza bisogno del dipartimento dello sceriffo né della polizia di Stato. Oggi io non ho nient'altro da fare. Allora, detto questo, siete tutti con me?» Dicero tutti di sì con la testa, tranne il fratello. «E tu?» disse il vescovo. «Ah, io vengo», rispose quello. «Qualcuno ti deve pur tenere a freno, Dudley. Io tra poco verremo a sapere che stai correndo per diventare governatore». Gli uomini sorrisero, vescovo incluso. «Ma a questo ci penserò più tardi. Adesso staniamo quel coniglio dal suo nascondiglio». tatsächlich jahrelang nur durch Regen oder ob es Tränen waren, ich weiß es heute nicht mehr. Doch wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, werd ich denselben Weg noch einmal für dich gehen. Wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, dann ist mir kein Preis zu hoch, um dich zu sehen. Ich mit mir trage, da ist meine Geschichte und mein ganzes Leben drin. Du kannst sie mir wegnehmen und sie verbrennen. Sie ist voller Erinnerungen, die ich nicht mehr haben will. Für mich ist gestern wertlos und morgen ganz egal. Solange du mir versprichst, dass du mich halten kannst. Wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, werd ich denselben Weg noch einmal für dich gehen. Wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, will ich dir folgen bis ans Ende dieser Welt. Questi erano Die Totenhosen con il brano Was Zelt. Letto bene? Was Zelt. Zelt. Che cosa conta? Vabbè, sicuro. Non ci potevo mai prendere. Allora, per l'appunto dopo Was Zelt di Totenhosen, passiamo alla controinformazione. Ancora Cile, con uno scritto da parte della famiglia Toledo Vergara. Il testo che ora andiamo a leggere è stato volutamente tagliato, specialmente nella parte finale, perché nonostante la solidarietà verso la famiglia Vergara Toledo, che ha scritto il testo, non si condividono per niente alcune scelte. Per chi vuole leggere la lettera interamente, andate alla fonte che trovate alla fine dell'articolo. Allora, l'ho scritto da parte della famiglia. La famiglia di Tamara, tanto per capirci. Allora, siamo la famiglia di Tamara Solfarias Vergara. Come già sapete, Tamara è detenuta nel carcere di San Miguel dal 22 gennaio 2014. Durante la visita di lunedì 16 giugno, che era solo per la famiglia, abbiamo avuto seri problemi con la gendarmeria per un abuso di potere a cui siamo stati sottoposti. Alla nonna di Tamara, Luisa, che ha 75 anni, la carceriera le ha ordinato di spogliarsi e fare le flessioni, rimproverandola di portare molti vestiti. Va ricordato che il luogo dove i prigionieri ricevono le loro famiglie è una palestra coperta, ma aperta su entrambi i lati, dove entra il vento e la pioggia, bagnando l'intero posto e generando un ambiente molto freddo e umido. Più tardi, la stessa carceriera gridò alla visita per un altro detenuto perché il suo bambino di pochi mesi se l'era fatta addosso al momento del controllo, urlando che non doveva più accadere e che doveva cambiarlo prima di entrare. Quella madre è arrivata piangendo alla palestra per le visite. Anna Luisa, la madre di Tamara, è stata trattata più violentemente perché fu controllata e denudata insieme ad un'altra persona e anche perché indossava una cintura di lino che la carceriera l'ha costretta a togliere, altrimenti avrebbe dovuto allontanarsi dal recinto, alzando la voce e puntando il dito contro in maniera molto prepotente. Di fronte a tale comportamento provocatorio della carceriere, Anna ha violentemente gettato via la cintura e le disse alla sbirra che quello è l'unico posto dove lei poteva abusare di questo potere, ma per strada non c'è nessuno che la potesse difendere. Questo gesto di rabbia prodotto dall'impotenza è stato considerato come una grave mancanza di rispetto per l'autorità, negando la possibilità di entrare e a vedere la figlia. I nonni di Tamara, Luisa e Emanuele, erano già entrati per vedere Tamara, ma sapendo cosa era accaduto di comune accordo, hanno deciso di andare via dalla visita e hanno ripreso la gendarme per il suo stupido atteggiamento arrogante nei confronti dei visitatori dei detenuti e per la sua necessità malata di essere riconosciuta come un'autorità. E gli dissero chiaro che essa, con nessun tipo di uniforme, sarà un'autorità per noi. Entrambi i nonni sono stati minacciati con le pene dell'inferno e portati dal capo dei carcerieri per fargli applicare la punizione corrispondente. Tamara, dopo aver sentito del maltrattamento e l'abuso di potere da parte della carceriera alla sua famiglia, ha fatto un gesto audace e dignitoso dalla sua grandezza di essere umano nell'esercizio della sua dignità e per difendere la nostra. Ella ha chiesto un colloquio con la comandante della prigione e si lamentò per l'abuso contro la sua famiglia, chiarendo che la sua famiglia non deve essere buttata fuori e costantemente minacciata dai funzionari protette dalle uniformi e dai protocolli di revisione per i visitatori. Ha concluso anche la sua affermazione con uno sputo in faccia alla comandante del carcere e alla sua subordinata che l'accompagnava. E poi lasciò cadere i pantaloni mostrandogli il culo, azione nota come viso pallido in Cile, come segno di quanto sia umiliante per i visitatori spogliarsi di fronte a personale facendo pressioni e mostrare le loro parti intime nude, nonostante hanno i moderni metodi per rilevare i metalli atti alle porte di accesso, sedie e scanner dove dovremmo sederci e pulire. Tamara è stata punita con 7 giorni senza visite. Da parte sua, Anna, la madre di Tamara, è stata punita con 3 mesi senza visite perché, riferendosi all'uniforme, aveva minacciato di uccidere l'ufficiale, che è assolutamente falso. Un altro punto che voglio chiarire è che Tamara è stata colpita un mese fa da 2 detenute. Lei non riuscì a difendersi e fu ugualmente punita senza visite per 2 settimane. A quel punto abbiamo fatto richiesta di trasferimento di Tamara ad un altro modulo, ma ad essere trasferite furono le 2 che l'aggredirono. Ma questa volta non lasceremo passare questa situazione ingiusta perché sentiamo che si è raggiunto un limite pericoloso di perdita della nostra dignità nei confronti dei dispotici modi di fare del personale della gendarmeria. Come famiglia Vergara Toledo denunciamo pubblicamente le continue vessazioni e abusi di potere da parte di funzionari della gendarmeria, non solo per nostra figlia ma a tutti i visitatori delle donne che sono detenuti nella prigione di San Miguel. Capiamo che sia i prigionieri che le loro famiglie non hanno il coraggio di denunciare gli abusi da parte di funzionari della gendarmeria perché le conseguenze sono evidenti. E qui poi il testo viene tagliato perché comunque alla fine lo dico, poi chi vuole se lo va a leggere dalla fonte. Praticamente la famiglia di Tamara ha fatto appello all'Istituto per i diritti umani e tutta una storia del genere, quindi ho evitato e voglio evitare di far passare queste cose per radiazione. Chi vuole leggersi il continuo c'è la fonte, ci clicca in spagnolo e se lo traduce se lo legge. E questo era per quanto riguarda la controinformazione per quanto riguarda la compagna Tamara. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Borghesi, stavolta lo leggo bene, il brano è Message e dopo si ritorna qui con la lettura dei Sabotatori di Edward Ebbey. We'll be right back. rimontarono in macchina e avanzarono come da programma. A 1,5 chilometri dall'obiettivo Bishop Lava si fermò e scese. Gli altri si unirono a lui, erano tutti armati fino ai denti. Pistole, carabine, fucili, Lava impartì i suoi ordini e la squadra si allargò a ventaglio lateralmente verso i lati della cresta. Prese su il binocolo per controllare la sua preda, ma il terreno si alzava impedendo un'osservazione diretta. Guardò dall'altra parte, i suoi uomini erano pronti in attesa. Fece un movimento con il braccio destro, il segnale di avanzata del comandante. Cominciarono a muoversi tutti in avanti, piegati sulle gambe, sfruttando la copertura dei ginepri e dei pini, tenendo le armi a portata di mano. Il fratello del vescovo, Sam, stava accanto al vescovo nel posto che entrambi volevano. Un fiero e caldo mezzogiorno avvolgeva la contea di San Juan. Tuoni nell'aria, qualche nuvola decorativa nella zona sudorientale del cielo, il sole splendente su pietre, alberi, le foglie a baionetta della yucca. Nessuno notò i tageti del deserto, i aster purpurei, i girasoli con i petali a orecchie di mulo in fiore qui e là nei bacini sabbiosi della roccia. La squadra aveva una preda più interessante. «Hai preso la tua digitalina oggi, Dudley?» «Sì, ho preso la mia digitalina oggi, Sam.» «Ah, ho solo chiesto.» «Ok, allora adesso stai zitto.» Bishop Love infilò una cartuccia nella camera di scopo della sua carabina e abbassò il cane. «Si stava divertendo.» Non si era mai sentito altrettanto bene come dai giorni del rastrellamento sull'isola di Okinawa. Allora lui non era il vescovo, ma il tenente Lieutenant Love, capo plotone stella di bronzo, e si era costruito un buon curriculum di guerra fra valori, successivamente sterminando inermi prigionieri giapponesi del sollevante. Mentre il cuore gli si allargava, il vescovo per un momento provò addirittura una traccia di simpatia per il muso giallo intrappolato, per il perdente senza più via di fuga accucciato lì dietro la sua jeep, i pantaloni che puzzavano di paura. La squadra di ricerca e soccorso avanzò tatticamente, due che procedevano mentre gli altri rimanevano fermi, pronti a fornire, se necessario, il fuoco di copertura. Ma dalla posizione del fuggitivo non partì alcuno sparo. La squadra avanzava sempre più piegata, perché il bordo era ormai a meno di 400 metri e gli alberi erano sempre più radi. I sei uomini strisciarono lentamente sul terreno, tenendosi tutti a portata d'occhio. Si fermarono, attesero, ascoltarono. «Ho sentito un motore», disse il fratello. «Non è possibile, Sam», replicò il vescovo. Voleva usare il binocolo, ma così vicino al nemico esitava a mollare l'arma che impugnava. Io non sento niente. Ascoltarono con maggiore attenzione. Nessun suono di nessun genere, eccetto il flebile sospiro della brezza tra i rami del ginepro e l'occasionale, irrilevante cinguettio degli uccelli. «Ah, credevo di aver sentito», disse il fratello. «Dici che lui è dietro quell'ultimo albero?» «Sì, ma non vedo la jeep.» «C'è, non ti preoccupare che c'è.» Il vescovo guardò a sinistra, poi a destra, guardò i suoi uomini. Loro aspettavano senza perderlo di vista. Tutti stavano sudando, tutti avevano la faccia paonazza ma risoluta. Il vescovo si voltò verso il punto della cresta, l'ultimo albero di ginepro, che era oscurato da altri alberi e appena visibile dal punto in cui si trovava lui. Mise le mani a coppa intorno alla bocca e urlò: «Alzati! Rudolf il Rosso, comunque ti chiami, mi senti?» Nessuna risposta tranne il passaggio dell'aria, il distante parlottio delle ghiandaie, l'urlo modulato di una grande civetta cornuta proveniente dal basso, oltre l'urlo. Il vescovo strillò di nuovo. «È meglio se vieni fuori di lì, Rudolf! Siamo in sei! O rispondi o cominciamo a sparare!» E rimase in attesa. Nessuna risposta tranne una seconda inutile provocazione della civetta. Il vescovo portò il cane in posizione di sparo, fece un cenno con il capo e i suoi uomini, questi presero la mira e fecero fuoco, tutti tranne il fratello. Fecero fuoco nell'area circostante, il grande ginepro che si agitò visibilmente sotto la gragnola di proiettili e pallettoni. Il vescovo sollevò la sua mano. «Cessate il fuoco!» L'eco della sparatoria si allontanarono giù per il monoclinale e attraverso la Valley of the Gods, la valle degli dei, morendo contro le pareti e i promontori del plateau 8, 16, 30 km più lontani. «Rudolf!» gridò il vescovo. «Stai scendendo!» Aspettò. Nessuna risposta tranne quelle dei cinguettii degli uccelli. «Coprimi!» disse a suo fratello. «Strapperò quel diavolo da qui a forza. Vengo con te, stai qui! È un ordine!» «Non dire stronzate, dateli, dai, vengo con te!» Bishop Lavi, il vescovo, si appiattì sul terreno. «Va bene, Sam, fatti uccidere!» gridò agli altri quattro uomini. «Copriteci!» a suo fratello. «Andiamo!» Si spostarono con rapidità e circospezione da un albero all'altro su per l'ultimo pendio e si gettarono a terra, ma non c'era terra, si gettarono sulle pietre quando ormai erano bene in vista dell'ultimo albero e l'orlo del precipizio. Ebbene, non c'era nessuno. Adesso era fuori discussione. Se n'era andato Rudolf il rosso, il rosso nero, era sparito e insieme a lui la Jeep. Non era rimasto altro che il ginepro solitario, un lastrone fessurato di arenaria vicino ai suoi piedi e alcune macchie di grasso e pezzi di acciaio sparsi sul terreno. «Non c'è!» disse il fratello del vescovo. «Non è possibile!» «Beh! Lo vedi, non c'è nemmeno la Jeep, c'è, lo vedo anch'io, non sono cieco, maledizione!» Bishop Lave si tirò su un ginocchio fissando la presenza positiva definita quasi tangibile, quasi palpabile del nulla. Il sudore gli gocciolava dal naso. «Ma non è possibile!» Camminarono fino all'orlo del precipizio e guardarono oltre. Tutto quel che videro era quello che c'era. Una terrazza di pietra nuda, una trentina di metri più sotto, i calanchi corrosi, le gole, torrenti e ruscelli che drenavano i loro letti aridi di sabbia e frammenti minerali verso Combo Wash, l'alta parete verticale del Combo Ridge oltre il deposito alluvionale, le montagne che si alzavano alle spalle di esso. Sam sorrise di sbieco a suo fratello. «Beh, futuro governatore...» «Stai zitto, sto cercando di pensare!» Sì, c'è una prima volta per tutto. Sta zitto! Mettiamoci qui all'ombra e proviamo a immaginare come può essere andata. Ah, forse adesso lo chiamerai via radio, lo sceriffo. Bishop Lava strappò un filo d'erba e se lo infilò tra i denti, si accovacciò sugli ampi bicipiti femorali e grattò il terreno con un bastone. «Chiamerò lo sceriffo quando avrò catturato questo bastardo», disse lui e la sua banda di pervertiti. «Ecco quando chiamerò lo sceriffo, non prima, non un minuto prima!» «Ok, perfetto, va bene, allora riprendiamo la caccia a questo fantasma, ma come?» Il vescovo strizzò gli occhi al sole e aggrottò le sopracciglia al fratello e guardò ancora l'albero e indietro il terreno roccioso tra i suoi scarponi. Ruminò e grattò e pensò: «Sì, ci sto lavorando sopra.» Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Attenzione, Radioazione.org.